te sai può accadere. Lo sai anche tu. E quando chiudi gli occhi, accendi una TV e resti lì a galleggiare, sino a che quel che ti gira intorno si accorge anche di te. Volevo solo sapere che cosa è successo, che mi sei nata in testa ed io non te l'ho chiesto. Io me ne stavo nel mio cielo, lo sai, perso nei battiti del mondo che vuoi. E all'improvviso cado giù. Adesso voglio sapere con chi sei, quando ti tocchi il silenzio e non mi dire che non lo sai. Mi piacerebbe sapere se ci sarai, quando piango sangue e male e prima o poi succede, sai. Mi piacerebbe sapere se in fondo esisti.